perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Un uomo è stato ucciso dopo essere entrato in un commissariato di Parigi. Aveva una cintura esplosiva, scrivono alcuni media locali. Oggi l'anniversario degli attacchi a Charlie Hebdo. Salgono a 121 le denunce per molestie, violenze sessuali e furti nella notte di Capodanno a Colonia in Germania. Sono 16 sospettati, secondo le testimonianze, molti di origine nordafricana. Un'altra giornata in rosso per le borse, spinte al ribasso dall'Asia. In Cina sono state di nuovo sospese le contrattazioni sui mercati per cali eccessivi. Dubbi sempre più forti sul fatto che la Corea del Nord abbia effettivamente testato una bomba all'idrogeno. Le Nazioni Unite verso l'estensione delle sanzioni. Al Cairo spari contro un pullman di turisti. In Libia camion carico di esplosivo dell'ISIS contro un'accademia di polizia. Almeno 60 i morti. La disoccupazione scende all'11,3%, ai minimi da 3 anni. Cresce il numero di occupati in novembre di 36.000, oltre 200.000 in un anno. Dopo la giornata di campionato, sempre più vicino l'esonero di Mihajlovic dal Milan e anche Garcia alla Roma resta in bilico. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto di Radio 24 a metà giornata su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it se volete scriverci, il numero di sms 349-238-6666 che poi è anche il contatto per WhatsApp, dunque 349-238-6666. In apertura dunque oggi andiamo a Parigi dove è notizia degli ultimi minuti che un uomo è stato ucciso dopo essere entrato in un commissariato di Parigi. Ovviamente come sempre quando le notizie avvengono e nei minuti immediatamente successivi è difficile avere chiarezza su quello che effettivamente sia successo, sono contrastanti anche le indicazioni che arrivano dai media locali. Per fare un punto ci colleghiamo con Leonardo Martinelli da Parigi. Leonardo, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa sappiamo? Guarda, per il momento si sa che appunto un uomo nella tarda mattinata ha cercato di entrare dentro un commissariato qui a Parigi nel 18° arrondissement, quindi nel quartiere della Goutte, che è un quartiere a forte concentrazione di musulmani, anche un quartiere in parte degradato, un quartiere simbolo, diciamo, da un certo punto di vista. Quest'uomo aveva un coltello e ormai lo stanno confermando gran parte dei media francesi, aveva anche una cintura esplosiva. Ha gridato all'Akbar, Allah è il più grande, e ha cercato di entrare dentro il commissariato. A questo momento è stato abbattuto dai poliziotti. Il suo cadavere, fra l'altro, si trova ancora proprio davanti al commissariato della Goutte d'Or. Nel quartiere ovviamente c'è stato panico, ancora in questo momento l'area è bloccata, è arrivato Bernard Cazeneuve, il ministro degli interni, le scuole sono chiuse con gli alunni confinati all'interno, insomma scene già viste sfortunatamente in Francia. Allora Leonardo, tra l'altro forse possiamo sentire un passaggio di audio. Oggi è stata la giornata nella quale si sono ricordati gli attacchi al settimanale satirico Charlie Hebdo ad un anno di distanza. Sentiamo un passaggio di Hollande. Car le terrorisme n'a pas fini de faire peser sur notre pays une menace redoutable. E questo, Leonardo, forse è stato il passaggio più forte, no, dell'intervento di Hollande. Certo, un intervento proprio per ricordare i poliziotti che erano morti un anno fa e per dire che l'aggressione nei confronti di un poliziotto o di un pompiere, ha citato anche i pompieri, non è soltanto un atto di delinquenza ma un attentato alla Repubblica. È stato proprio molto duro e mentre pronunciava queste parole c'è stata questa aggressione nel 18°. Ricordo anche un'altra coincidenza, l'aggressione è avvenuta praticamente alla stessa ora in cui esattamente un anno fa c'è stato l'attacco a Charlie Hebdo. Quindi probabilmente anche una scelta simbolica. Ti ringrazio intanto a Leonardo Martinelli in collegamento da Parigi, col quale torneremo a parlare alle 13.35 per avere ulteriori aggiornamenti. Al centro dell'attenzione in queste ore resta ancora la vicenda di Colonia, dove un centinaio di donne hanno denunciato molestie, in due casi anche violenze sessuali nella notte di Capodanno, a quanto sembra ad opera, come abbiamo ampiamente raccontato anche nei giorni scorsi e nelle ore scorse, ad opera di gruppi di uomini all'apparenza nordafricani. Facciamo un punto cercando di ricostruire anche esattamente cosa sappiamo fino ad ora di questa vicenda. Notte di Capodanno, Colonia. Un migliaio di uomini, di cui molti ubriachi e aggressivi, fa esplodere fuochi di artificio nella piazza della stazione. La polizia interviene per disperderli, ma molti, organizzati in piccoli gruppi, ritornano e cominciano a disturbare e molestare soprattutto le donne, che descrivono gli aggressori come arabi o nordafricani. È a questo punto che la polizia fallisce, critica il ministro degli interni tedesco De Maizière. Non interviene più, si limita a registrare le denunce. Da quella sera ad oggi ne sono arrivate 121, tre quarti per molestie sessuali, due per stupro. Ma molte delle vittime sono anche state derubate. Tutto a un tratto questi uomini hanno cominciato a molestarci, a toccarci dappertutto, racconta questa giovane vittima. Quando mi sono girata, un ragazzo mi ha strappato la borsa che aveva addosso. Non ci sono stati arresti per ora, ma 16 degli aggressori sarebbero stati identificati. Il capo della polizia di Colonia difende i suoi uomini, parlando di una dimensione criminale del tutto nuova. Episodi simili, sia pur di minor impatto, sono stati registrati a Capodanno anche ad Amburgo, alla stazione, e Stoccarda, dove gli assalti sono avvenuti invece in una piazza centrale della città. Una delle ipotesi su cui si lavora è che le aggressioni siano state organizzate da bande di criminali comuni. A Düsseldorf in passato sarebbero avvenuti fatti simili, molestie sessuali per arrivare a rapinare la vittima. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E siamo all'Europa, che continua intanto a dibattere sul ripristino dei controlli ai confini dopo le decisioni in questo senso di Svezia e Danimarca. Oggi a parlare è stato anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Sergio Nava, buongiorno. Sì, buongiorno. Dopo il mezzo fallimento sostanziale del vertice sui migranti dei paesi nordici a Bruxelles ieri, la Commissione europea prova ad alzare la voce, lo fa nell'inaugurazione del semestre di presidenza olandese ad Amsterdam, e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione, dice: dobbiamo salvare Schengen, è un dovere collettivo, non si può andare avanti con questo processo di governi che giorno dopo giorno ripristinano i controlli alle frontiere. Juncker ha indicato che l'Agenzia Europea delle Guardie di Frontiere è la priorità per rafforzare le frontiere esterne. Su questo Bruxelles ha fatto una proposta proprio per le guardie comuni di frontiera e c'è l'ambizione di approvarla proprio entro questo semestre olandese. Ci sono novità anche sul fronte turco, perché il vicepresidente della Commissione europea Timmermans domenica e lunedì andrà ad Ankara per discutere del piano d'azione tra Bruxelles e la Turchia, piano d'azione approvato a fine novembre, ma anche qui la Commissione denuncia, si dice anzi tutt'altro che soddisfatta di come stanno andando le cose, perché nelle ultime due settimane gli arrivi di profughi sono rimasti relativamente alti sulla rotta del mare Egeo. È anche vero che alla Turchia sono stati promessi 3 miliardi, di cui non è che al momento ci sia realmente traccia. Infine il premier olandese Mark Rutte dice: dobbiamo ridurre in modo considerevole il flusso dei profughi verso l'Europa, e nei fatti torna ad attaccare i paesi del sud, perché dice: per rilocalizzare i rifugiati, che è quello che chiede ad esempio l'Italia, serve in primis un buon sistema di registrazione alle frontiere. Per il momento è tutto. Grazie Sergio Nava per questo aggiornamento. Siamo alla nuova giornata pesantissima per i mercati finanziari dopo il nuovo crollo della borsa cinese, delle borse asiatiche in genere. Sulle borse asiatiche andremo nel dettaglio tra un attimo. Intanto un punto di quel che sta succedendo in Europa con Deborah Rosciani. Deborah, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, pesantissima la situazione sulle piazze finanziarie europee. Vi preannuncio già che anche i futures, gli indicatori anticipatori americani, preannunciano un'altra giornata di forti vendite anche oltre oceano. Il Nasdaq oggi dovrebbe aprire con un ribasso di 3 punti, per il Dow Jones il ribasso dovrebbe essere attestato intorno al 2,3%. Peraltro domani arriva anche l'importante dato sulla disoccupazione americana, un altro test molto importante per gli Stati Uniti. L'Europa, dicevamo, dopo le vendite che hanno travolto l'Asia questa mattina, i ribassi europei sono fortissimi. Abbiamo Parigi meno 2,68%, Francoforte meno 3,46%, l'indice Eurostox 50 è in calo di oltre 3 punti, per quello che riguarda Londra meno 2,74 e Milano meno 2,46%. Pensate che Milano aveva aperto con un ribasso che ha toccato anche per un istante quasi 4 punti percentuali, poi ridotti fino a questa misura. I temi sono molti, naturalmente la crisi asiatica pesa più di tutte, poi ieri ci ha messo benzina sul fuoco anche la Banca Mondiale, che per il terzo anno di fila ha tagliato le stime di crescita mondiale, colpa delle prospettive in peggioramento soprattutto per le economie emergenti, ha detto la Banca Mondiale. Il petrolio è a $32 al barile, vedo qualche agenzia che addirittura segnala, io da miei terminali non lo vedo, che abbia che sia scivolato anche fin sotto i $30, a me non risulta, ma in ogni caso siamo ai minimi per quello che riguarda le quotazioni di greggio da 12 anni a questa parte. Pesano anche tutte le altre tensioni internazionali, Simone, però insomma è un inizio di 2016 davvero difficile per la finanza internazionale. E grazie Deborah, e questo lo torneremo a commentare tra un attimo, intanto facciamo un punto proprio sull'Asia, lo facciamo con Stefano Carrer, corrispondente del Sole 24 Ore da Tokyo. Un'altra mattinata terribile dunque, Stefano. Sì, certo, è ancora una volta la Cina che si conferma l'epicentro del terremoto che ora sta investendo i mercati finanziari globali, con forti scosse dalle borse alle valute. Oggi infatti è andata in scena la replica della sessione di lunedì scorso, un crollo delle borse cinesi di oltre il 7% che ha fatto scattare i nuovi meccanismi di interruzione della contrattazione, questa volta solo dopo mezz'ora dall'avvio degli scambi. Una sessione lampo, quindi la più breve della storia, che ha fatto accentuare i cali presso altri mercati asiatici. Tokyo, meno 2,3%, ha già perso il 6,7% da inizio anno, quindi il peggiore inizio d'anno da un ventennio, mentre Hong Kong ha chiuso un ribasso del 3,1% ai minimi da 2 anni e mezzo. Quello che accentua i timori degli investitori internazionali è l'accelerato deprezzamento pilotato del renminbi ai minimi da circa 5 anni, che fa intravedere problemi più seri del previsto per l'economia cinese e anche lo spettro di nuove guerre valutarie e di fughe di capitali dai paesi emergenti. Le autorità cinesi stanno cercando di rimediare, confermando in parte le restrizioni alla vendita di azioni da parte di grandi azionisti di società quotate varate la scorsa estate e che erano in scadenza domani, e offrendo anche nuova liquidità al sistema. Ma gli investitori appaiono sempre più scettici su mosse considerate da molti erratiche e ormai poco efficaci. Vi restituisco la linea. Grazie Stefano Carrera anche per questo punto. Abbiamo parlato di questo presunto attacco terroristico questa mattina a Parigi, ci sono stati altri attentati oggi, uno in Libia e un attacco a colpi d'arma da fuoco ai turisti al Cairo. Almeno 60 le vittime e almeno un centinaio i feriti, ma il bilancio è ancora provvisorio. I testimoni parlano di un massacro. La deflagrazione ad opera di un camion bomba imbottito di esplosivo è avvenuta alle 8 del mattino, ora locale presso il centro di addestramento della polizia giudiziaria di Al-Jafal nella città di Zlitan sulla costa del Mediterraneo, nell'ovest della Libia, 35 km da Misurata. Numerose reclute si stavano affollando davanti all'ingresso del centro per la cerimonia di consegna dei diplomi. Per questo il numero delle vittime è così alto. È stata invece smentita la notizia dell'esplosione avvenuta in un secondo punto della città. L'ISIS, che in questi giorni sta guadagnando terreno in Libia, ha rivendicato l'attacco non direttamente ma attraverso l'agenzia AMAC, uno dei media ufficiali del califfato, sul cui sito si afferma che l'attentato è stato messo a segno da uno degli eroi dello Stato Islamico a Zlitan. Altro episodio sempre oggi in Egitto, dove un autobus di turisti è stato attaccato di fronte ad un albergo vicino alle piramidi a colpi di arma da fuoco da un gruppo di 16 uomini armati, ma secondo la polizia egiziana l'attentato non è di natura terroristica ma penale. Alla base ci sarebbe un diverbio tra uno dei frequentatori dell'hotel e un agente della sicurezza. I viaggiatori, una comitiva di arabi e 2 israeliani, sono rimasti tutti incolumi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. C'è anche questo elemento, appunto, quello del terrorismo a contribuire alle tensioni internazionali. Di certo lo fa l'annuncio della Corea del Nord di aver testato con successo una bomba all'idrogeno che è assai più potente di un'atomica, un fatto sul quale gli esperti hanno molti dubbi e più avanti sentiremo un esperto. Intanto ecco il punto di oggi. Dopo la condanna unanime contro la Corea del Nord e la sua presunta esplosione di una bomba H, oggi è il giorno delle azioni. Il presidente Obama, che nella notte ha sentito i leader di Giappone e Corea del Sud, ha dato l'ok per il decollo, sempre nella notte, di aerei ricognitori americani partiti dalla base sull'isola di Okinawa nel sud del Giappone. Il portavoce della Casa Bianca ieri aveva dichiarato che l'America avrebbe raccolto prove supplementari sui test e questa spedizione di aerei spia sembra confermare le intenzioni. Di questo si occupano con largo interesse Russia e Cina, preoccupati che le nuove tensioni con la Corea del Nord sfocino in un rafforzamento della presenza americana nell'area. Le risoluzioni dell'ONU chiedono a Pyongyang di smantellare completamente in modo irreversibile i propri programmi nucleari. La Corea del Sud ha invece chiesto un inasprimento delle sanzioni. Come prima azione pratica, Seoul oggi ha intanto limitato l'accesso alla zona industriale di Kaesong, condivisa tra le due Coree. Il Ministero dell'Unificazione di Seul ha detto che sarà negato l'accesso alle persone che non siano impiegate nel polo industriale, escludendo così clienti e potenziali acquirenti e fornitori di servizi. Il Giappone, intanto, ha fatto alzare in volo i suoi aerei da guerra per effettuare misurazioni delle radiazioni nell'area e ha fatto sapere di non aver riscontrato finora irregolarità. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dunque proviamo a mettere un po' di cose insieme. Quello che abbiamo raccontato in apertura, ossia la minaccia terroristica all'Europa, il tema dell'immigrazione che sta creando pesanti tensioni nel vecchio continente, le tensioni che arrivano appunto dalla Corea del Nord e si aggiungono a queste quelle tra Iran e Arabia Saudita. Le notizie di questa mattina è che l'Iran ha accusato l'Arabia Saudita di aver bombardato l'ambasciata di Teheran nello Yemen. Poco fa la Associated Press, testimoniando in diretta da Sana'a, la capitale yemenita, ha detto che non ci sono segni visibili di danni e nel frattempo lo stesso Iran ha vietato le importazioni delle merci dall'Arabia Saudita. La vicenda, lo ricordiamo, si riferisce al fatto che la stessa Arabia Saudita ha fatto giustiziare un imam sciita, suscitando proprio la rabbia dell'Iran. Un anno dunque che anche per l'economia, Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Non si apre per nulla bene. No, assolutamente no, ma c'è, mi sembra ci sia un legame anche molto stretto fra quella serie di avvenimenti che adesso ho citato e la crisi dei mercati. Certamente l'elemento fondamentale è la crisi dell'economia cinese, ma non solo di quella, c'è la crisi praticamente di tutti i paesi BRICS, perché il Sudafrica sta precipitando in una forma di fallimento africano con un presidente orribile come Jacob Zuma che sta facendo dimenticare l'eredità, sta cancellando l'eredità di Nelson Mandela. Il Brasile va a picco, la Russia, anche quella, l'economia russa sta andando malissimo, quindi tutte queste cose hanno come dire problematiche loro, però certamente la crisi internazionale, gli avvenimenti internazionali, è passata da poco, appena una settimana dall'inizio dell'anno e già abbiamo quasi un conflitto nel luogo dove si produce la maggior quantità di barili di petrolio, tra Iran e Arabia Saudita, e nella cosiddetta powerhouse dell'industria manifatturiera mondiale, cioè fra Cina, Giappone e Corea del Sud, scoppia una bomba atomica, quindi non mi pare che sia un anno, come dire, molto positivo. Detto questo, però, non è che in passato fosse molto diverso. C'è il terrorismo, c'era, ricordo gli anni sì. 70 il terrorismo palestinese, c'è il terrorismo brigatista, il terrorismo della Baader-Meinhof, c'erano i conflitti regionali che sì. venivano continuamente combattuti. La differenza sostanziale è che allora c'era la gente, aveva una percezione di maggiore sicurezza, che c'era il mondo diviso in due, c'era l'Unione Sovietica e c'era gli Stati Uniti, che in qualche modo davano un minimo di ordine. Almeno davano questa percezione di ordine. E adesso, come dire, il mondo è più disordinato, per così dire. Allora io ti ringrazio, grazie a Ugo Tramballi del Sole 24 Ore per questa analisi. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, abbiamo molti altri argomenti da toccare che abbiamo lasciato un po' da parte nella prima parte della trasmissione. Abbiamo la giornata sportiva, abbiamo il tema della disoccupazione e poi lo scontro politico tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico su questa vicenda della camorra che avrebbe parzialmente inquinato il voto nel comune di Quarto, dove c'è un sindaco dei 5 Stelle. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i titoli principali: c'è un uomo che è stato ucciso dopo essere entrato in un commissariato di Parigi, secondo varie fonti aveva una cintura esplosiva. Salgono a 121 le denunce per molestie, violenze sessuali e furti nella notte di Capodanno a Colonia, in Germania. Un'altra giornata in rosso per le borse, spinte al ribasso dall'Asia, in Cina di nuovo sospese le contrattazioni sui mercati per cali eccessivi. Dubbi sempre più forti sul fatto che la Corea del Nord abbia effettivamente testato una bomba all'idrogeno. Ed eccoci qua di nuovo, riprendiamo il filo di questa giornata, una fonte ben parlante francese che avete sentito di sottofondo sui titoli, che diceva che la cintura esplosiva era finta, era Carlo Genta, col quale però in realtà è bello di radio, è il bello, sto guardando una televisione al di là del vetro. che dice, e vedo una breaking news in rosso che dice che la cintura esplosiva era finta. Era finta a quanto pare. Va bene, adesso andremo a verificare, più avanti ci ricollegheremo con Leonardo Martinelli da Parigi. Carlo Genta, per parlare in realtà di calcio. Carlo, che sì. Giornata è stata? Un Mihajlovic ci sembra sempre più in bilico, forse anche Garcia, chissà, sì. Si decide prossimo weekend. Sono due allenatori che sono e saranno costantemente in bilico fino a quando verranno licenziati, cosa che mi pare avverrà, cosa che credo avverrà. Comunque la giornata di ieri ci ha offerto un sacco di spunti, perché le prime quattro della classifica in realtà reggono: l'Inter vince ad Empoli, la Fiorentina vince anche in maniera larga 3-1 a Palermo, vince così il Napoli con il Torino e la Juventus facilmente con il Verona. Dietro c'è il deserto, c'è il vuoto, anche perché appunto il Milan si arrende in casa con il Bologna, una partita che il Bologna ha ampiamente meritato di vincere. Più tardi dovremo avere ospite Roberto Donadoni in tutti i convocati, così ci hanno promesso. La Roma rimane un enigma, perché va sopra 2-0 a Verona con il Chievo, si fa rimontare due gol, poi riesce ancora a passare in vantaggio e prende il gol del definitivo 3-3, rischiando anche nel finale. Tra l'altro giornata storica, perché è stato il primo episodio di gol assegnato con la tecnologia, quella punizione di Pepe rimbalzata sul palo. Sinceramente nessuno a occhio nudo avrebbe visto quel gol, è intervenuta la Line Technology e dunque il gol è stato assegnato al Chievo. Benissimo, tutto materiale per tutti i convocati a partire dalle 14, e un altro collega che si occupa di sport in studio con noi, Dario Ricci, per parlarci invece di volley e delle nostre ragazze del volley che puntano a Rio. Dario. Dicevamo di situazioni in bilico, sicuramente ancora in bilico il nostro futuro olimpico sotto rete, perché le ragazze del volley si stanno giocando la qualificazione nel raggruppamento ad Ankara, prima all'esordio della sconfitta con la Russia. Ieri il sofferto successo per 3-2 sul Belgio, oggi alle 18:30 la partita importantissima contro la Polonia per arrivare quantomeno alle semifinali e continuare nel cammino. Ma quello che è bello sottolineare di questa squadra è che rappresenta l'Italia di oggi ma anche quella di domani, no Simone? Ti dico solo qualche nome: Valentina Diouf, 22 anni, padre senegalese, e lei è la veterana, tra le veterane, ma addirittura 19 anni di Sara Bonifacio, madre nigeriana, e poi l'altra bomber della squadra, Paola Egonu, 17 anni, genitori nigeriani. Beh, insomma, uno spicchio d'Italia di oggi e di domani che intanto nel futuro più prossimo, cioè il Rio, ci piacerebbe davvero vedere in campo. Grazie a Dario Ricci e grazie dunque anche a Carlo Genta. Noi adesso torniamo ad altri argomenti, gli argomenti dell'economia innanzitutto, partendo dai dati sulla disoccupazione, poi torneremo a commentare tra un attimo la giornata di mercati che è ancora veramente pesante. Iniziamo dalla disoccupazione però, Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Dati sul mondo del lavoro provvisori, quelli diffusi dall'Istat che si riferiscono al mese di novembre 2015. La disoccupazione si attesta allora all'11,3%, toccando i minimi da 3 anni. Gli occupati sono cresciuti di 36.000 unità su ottobre, di 206.000 su novembre 2014, più 0,9%. Gli occupati complessivi a novembre erano 22.480.000. Diminuiscono parallelamente le persone in cerca di occupazione, sono 2.871.000, in calo di 48.000 unità su ottobre, di 479.000 sull'anno precedente. Buone notizie anche per i giovani: la disoccupazione relativa alla fascia d'età 15-24 anni diminuisce infatti di 1,2 punti percentuali su ottobre, attestandosi al 38,1%, il dato più basso da giugno 2013, segnala l'Istat. Altro elemento indicativo è quello relativo al tipo di occupazione: a novembre crescono i dipendenti a tempo indeterminato, più 40.000 unità su ottobre, in diminuzione i dipendenti a termine. Sin qui, Simone, i numeri principali dell'Istat. Veniamo ai commenti. La disoccupazione continua a scendere, dice il Presidente del Consiglio Renzi, è la dimostrazione che il Jobs Act funziona, le riforme danno buoni frutti, commenta il Ministro del Lavoro Poletti. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Restiamo sui temi economici per un commento su questa giornata di borsa, in realtà su questo avvio di anno veramente pesante, che in parte abbiamo commentato insieme a Ugo Tramballi per motivi politici e strategici. Ci colleghiamo con Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Maximilian, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, abbiamo già parlato ampiamente di quello che è successo questa mattina, ossia dell'impatto che ha avuto il nuovo crollo della borsa cinese. Secondo te anche se far previsione è difficilissimo, che cosa possiamo attenderci per i prossimi giorni e le prossime settimane? Beh, è una situazione che abbiamo in parte già visto lo scorso luglio, agosto soprattutto, quando la Cina è assurda agli onori delle cronache borsistiche, vuoi per il rallentamento della propria economia, vuoi per le svalutazioni, diciamo a sorpresa, dello yuan, del renminbi, da parte della Banca Popolare Cinese. Queste qui, queste mosse di questo tipo, in questo momento stanno mettendo in allarme un po' tutti i mercati, perché ovviamente soffrono gli esportatori, insomma, qualcosa ne sappiamo anche in Italia, visto che esportiamo molto in Cina, ma soprattutto crescono i timori per un eccessivo rallentamento dell'economia cinese, che ricordiamo è comunque la seconda economia mondiale, dovrebbe crescere il 7%, che per noi sembrano tassi incredibili. In realtà un rallentamento della Cina, soprattutto al di sotto del 7%, potrebbe essere molto molto pericoloso. In più, rispetto ad agosto, a quella volatilità che abbiamo visto allora, perché anche allora avevamo cali del 7-8% per la borsa cinese e del 3-4% per le borse europee e anche Stati Uniti, in più rispetto ad allora c'è qualche elemento in più. Avete parlato in precedenza anche con il collega Tramballi dei problemi geopolitici, c'è soprattutto... non è tanto la Corea, insomma, che preoccupa, sì. E forse non si riesce a capire nemmeno tanto quanto possa preoccupare i problemi del Golfo in questo momento, però c'è un petrolio che sta scendendo sempre più giù. Sì. E questo può sembrare un paradosso, perché uno dice il petrolio scende e l'economia dovrebbe beneficiarne, insomma, sì. Quello che vediamo tutti i giorni anche noi alla pompa. E in realtà il petrolio in devasto in questo momento è un segnale molto molto negativo per i mercati, perché mette in crisi una serie di stati e anche di aziende che producono petrolio e potrebbero produrlo a un prezzo più elevato, soprattutto, e quindi vengono messe in difficoltà e potrebbe avere un'effetto a catena anche negli Stati Uniti, soprattutto per la maniera brusca nella quale è sceso. Ti ringrazio, grazie a Maximiliano Cellino del Sole 24 Ore. Siamo alla più pura politica, allo scontro tra il PD e il Movimento 5 Stelle sul tema delle intercettazioni che sono state diffuse nei giorni scorsi, nei quali un imprenditore indagato per camorra chiede di far convogliare i voti a Quarto proprio sul Movimento 5 Stelle, un comune di Quarto nel quale l'amministrazione è guidata proprio dal Movimento 5 Stelle. Innanzitutto il punto con Elisabetta Fiorito e poi ne parliamo con un deputato del Movimento 5 Stelle. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora il caso Quarto scuote il Movimento 5 Stelle, il PD va all'attacco, a Quarto la camorra vota Movimento 5 Stelle, scrive il presidente Dem Matteo Orfini e ricorda che Luigi Di Maio disse che si doveva far ricoverare quando segnalò che ad Ostia i clan votavano 5 Stelle. Di Maio lo disse da Quarto, ribadisce Orfini. Emanuele Fiano, responsabile di sicurezza PD, si chiede perché il movimento non manifesta davanti alla prefettura di Napoli per chiedere lo scioglimento del comune di Quarto da loro amministrato. Ricordiamo l'inchiesta del PM Woodcock alle comunali del giugno scorso: un clan camorrista locale avrebbe sostenuto il candidato poi sindaco 5 Stelle Rosa Capuozzo. Nei mesi successivi il consigliere comunale pentastellato Giovanni De Robbia avrebbe mostrato al sindaco Capuozzo una foto aerea della sua casa in cui si presupponevano abusi edilizi per ricattarla e imporre la gestione del campo sportivo di Quarto ad un suo amico, l'imprenditore Alfonso Cesarano, presumibilmente legato al clan camorrista dei Polverino. Ora sentiremo appunto il deputato 5 Stelle. Noi diciamo però quello che dice Roberto Fico del direttorio: a Quarto il movimento è parte lesa, per ora il comune può andare avanti anche se verrà valutata ogni strada, compresa lo scioglimento. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 Stelle, dunque eccoci. Buongiorno, lo scioglimento è un'ipotesi? Salve, buongiorno a tutti, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Io credo che in realtà, come è stata presentata la cosa, abbia delle falle, nel senso che non è il PD che solleva il caso. Se c'è un caso è sempre la parte onesta del paese che noi cerchiamo di rappresentare al meglio, contro la parte disonesta del paese. Ci mettiamo in mezzo anche il PD, il Partito Democratico. Purtroppo qui la questione è effettivamente come è stato riferito nelle ultime righe, cioè il Movimento 5 Stelle risulta chiaramente parte lesa, il sindaco, al contrario di quanto si vuole insomma si vuole far trapelare oppure un po' forzare la mano su questo aspetto, non ha mai da quello che sappiamo noi, non ha mai ricevuto dei ricatti diretti identificabili come tali, altrimenti voi ci avete parlato Sibilia, voi ci avete parlato col sindaco, qualcuno di voi ci ha parlato col sindaco, che vi dice? Assolutamente sì, abbiamo tutti degli ottimi rapporti. Sì. Esattamente quello che già abbiamo ribadito con l'intervista fatta al Fatto Quotidiano, appunto da Roberto Fico, cioè noi abbiamo contezza del fatto che il sindaco non ha mai ricevuto delle minacce dirette, dei ricatti diretti identificabili chiaramente come tali, altrimenti, a differenza di come hanno fatto altri esponenti di altri partiti politici, avremmo sicuramente denunciato. Quindi qui un po' la questione se si vuole giocare su, però per noi è molto chiara, ecco, quindi sì. Noi ci riempiamo a parte lesa, e anzi diciamo anche che il Movimento 5 Stelle con il suo metodo ha funzionato. Senta Sibilia, a fronte di tutto questo, il sindaco ha ipotizzato dimissioni? No, assolutamente no. E non l'avete ipotizzata nemmeno voi, cioè che di fronte a tutto questo, come dire, dobbiamo comprendere che c'è un termine di un'indagine che deve ancora terminare, quindi sì. Questi sono assolutamente accostamenti che vengono fatti in maniera forzata con ad esempio il Comune di Roma, che non esistono, non sono in Cina intera, sono completamente differenti come situazioni, quindi credo che stiamo parlando un po' di notizie tra l'altro vecchie, venute fuori il 25 dicembre, diamo atto a chi perché sono uscite fuori le intercettazioni, insomma, sostanzialmente. Erano già state pubblicate, quindi sostanzialmente tirarlo fuori a seguito di una dichiarazione di Orfini che ha fatto la sua, penso, figura veramente pessima con il Comune di Roma, onestamente mi sembra anche quindi, poco credibile da parte dei giornali. Diciamo così, sì, Sibilia, brevemente, in una parola perché devo chiudere, garantisti su questa vicenda? Ma noi garantiamo l'onestà, questa è la prima cosa, questa è la cosa più importante, e stiamo con le persone che stanno indagando e vogliamo che venga fatta luce su tutto quello che c'è da fare luce, non abbiamo paura di niente, siamo una forza onesta, lo dimostreremo come sempre. Grazie Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 Stelle, magari nei prossimi giorni sentiremo anche altre voci. Una pausa, ci risentiamo per fare di nuovo un punto sui mercati e poi torneremo a Parigi per gli aggiornamenti su quello che vi abbiamo detto in apertura, la vicenda di un uomo che è stato ucciso dopo essere entrato in un commissariato di Parigi, aveva una cintura esplosiva, come avete sentito, a quanto pare falsa, sicuramente aveva un coltello. A tra poco. Effetto giorno. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano, come si diceva, l'uomo ucciso dopo essere entrato in un commissariato di Parigi aveva una cintura esplosiva, a quanto pare falsa, una falsa cintura esplosiva. Dunque, oggi tra l'altro è l'anniversario degli attacchi a Charlie Hebdo. Sono salite a 121 le denunce per molestie, violenze sessuali e furti nella notte di Capodanno a Colonia, in Germania. 16 sospettati, 2/3 delle donne hanno denunciato appunto molestie e in 2 casi ci sono stati degli stupri. Un'altra giornata in rosso per le borse, su questo ci arriveremo tra un attimo, e tutto è alimentato anche dalle tensioni internazionali, a partire dalle dichiarazioni della Corea del Nord che ieri ha detto di aver testato una bomba all'idrogeno. I dubbi sono sempre più forti, di questo parleremo tra poco anche con un esperto. La disoccupazione scende all'11,3%, ai minimi da 3 anni, e cresce il numero di occupati in novembre di 36.000. I mercati appunto. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. A proposito di Mafia Capitale, ne parlava poco fa il deputato del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia, l'ex assessore del Comune di Roma Daniele Ozzimo è stato condannato dal GUP a 2 anni e 2 mesi nell'ambito appunto del processo a Mafia Capitale. Ozzimo è accusato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. La notizia è di pochi istanti fa. Torniamo a Parigi da Leonardo Martinelli per gli aggiornamenti sull'uomo che è stato ucciso dopo essere entrato in un commissariato di Parigi. Dunque pare che Leonardo, che questa cintura esplosiva fosse falsa, è così? Sì, è quello che è stato dichiarato direttamente dalla polizia pochi minuti fa. Quindi appunto era dell'esplosivo in ogni caso non utilizzabile. Quanto ad altri dettagli non si conosce ancora l'identità di questa persona, anche se secondo le testimonianze delle persone che l'hanno vista si tratta comunque di un giovane. Tutta la zona dove questo è avvenuto, l'aggressione è avvenuta, che è il quartiere della Goutteau nel nord di Parigi, è attualmente off limit, cioè non si può entrare. Le due linee della metropolitana, la 2 e la 4 che passano di lì, sono bloccate e da quello che dicono gli abitanti della Goutteau al telefono, contattati dai giornalisti dei media francesi, tutti sono ancora dentro le loro case, i commercianti hanno chiuso, buttato giù le saracinesche dei loro negozi. Ti ringrazio, grazie per questo grazie. Aggiornamento a Leonardo Martinelli, al quale auguro buona giornata. Questa mattina è stato trovato un ordigno esplosivo che poi è stato disinnescato davanti a una sede di Banca Etruria ed è stata trovata a Perugia. Ci colleghiamo con Daniele Morini per un punto. Daniele, ciao, buongiorno. Sì, Simone, si tratta proprio di una bomba rudimentale che poteva esplodere e creare danni gravi alle persone. È stata trovata stamattina, come dicevi, a Perugia, di fronte alla filiale di Banca Etruria di Ponte San Giovanni, alla periferia, nell'immediata periferia, ed è stata fatta brillare dagli artificieri dei carabinieri. Secondo le prime analisi, nel pacco, oltre a lattine piene di chiodi, c'era anche una batteria e del fertilizzante usato, come sappiamo, in genere per ordigni artigianali. Gli investigatori parlano di un basso potenziale esplosivo, ma concordano sul fatto che comunque sarebbe esploso nel giro di un tempo breve. Secondo le prime stime, da approfondire con l'analisi di tutti i materiali presenti nel pacco, poteva esplodere creando di sicuro almeno una fiammata. Se qualcuno fosse passato lì vicino sarebbe rimasto ferito sicuramente. Ecco, i carabinieri del comando provinciale di Perugia stanno indagando per risalire al responsabile di quello che, a quanto pare, è per davvero un atto intimidatorio. È tutto da Perugia. Grazie a Daniele Morini per questo aggiornamento. Noi cambiamo decisamente argomento e saluto Massimo Torti, che è segretario generale di Federmoda Italia Confcommercio. Buongiorno Torti, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Abbiamo visto in un pezzo firmato Emanuele Scarci oggi sul Sole 24 Ore che questi primi giorni di saldi non stanno andando un granché bene. Guardi, non andare granché bene è un po' troppo presto per dirlo. Noi aspetteremmo comunque il weekend per capire effettivamente il trend. La partenza invece ci pare soddisfacente, perché se dobbiamo considerare che l'anno scorso ad esempio sono partiti di sabato e quest'anno un martedì, e quindi i dati vanno tarati. Ecco, quindi c'è anche una questione di calendario, cioè non è nulla di preoccupante al momento. Sicuramente, anzi noi diciamo che questa partenza ci fa restare fiduciosi, confermiamo le previsioni. Confermate le previsioni, cos'era? Un più 3%, e 5 sì, miliardi certo. e mezzo di spesa. Esattamente, se non erro, diciamo no? 5,4 miliardi, sì. Benissimo, allora speriamo che vada veramente così. La ringrazio, grazie a Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Italia Confcommercio. Saluto adesso Vanni Antoni, che è direttore dell'Istituto Gas Ionizzati del CNR, un fisico che si occupa di energia da fusione. Buongiorno Antoni, benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E potrete intuire perché l'abbiamo chiamato, per capire se veramente la Corea del Nord ha sviluppato e ha testato una bomba all'idrogeno. Innanzitutto ci dica, nel linguaggio più semplice possibile, Antoni, che differenza c'è tra una bomba all'idrogeno e una bomba atomica? Allora, le consiglio una brevissima premessa, rapidissima. La fusione nucleare è spiacevole sia associata alle bombe, perché in realtà è un processo naturale, che è quello del Sole, è legato alla vita in realtà, ed è quello che noi studiamo, e studiamo anche con grandi progetti internazionali. Premesso questo, entriamo nell'aspetto tecnico. Allora, la differenza tra una bomba all'idrogeno e una bomba convenzionale sta nel processo elementare. Il processo elementare, nel caso della bomba, diciamo, Nagasaki Hiroshima, tristemente note, è il processo della fissione, ovvero della scissione dei nuclei, tipo plutonio e uranio. Nel caso della bomba a idrogeno, invece, si mescolano due processi. Il processo di fissione, che c'è comunque, e il processo di fusione, che è quello che capita anche nel Sole, cioè si uniscono gli elementi leggeri, e questo rende disponibile una grande energia. E quindi una potenza molto, ma molto maggiore. Molto, molto maggiore. La combinazione dei due processi può portare a bombe di una potenza sconvolgente, anche 1000 volte superiore a quelle di Nagasaki e Hiroshima. Sono bombe state sviluppate nel passato e usate negli arsenali come deterrenti, diciamo, quando c'è stato il momento del confronto. E certo, lo ricordiamo, appena 10 anni dopo Hiroshima e Nagasaki, gli americani testarono sull'atollo Bikini una bomba, appunto, termonucleare, quindi all'idrogeno, che sviluppò una potenza 1000 volte superiore addirittura. Secondo lei, dai dati che abbiamo, per quanto pochi siano, è possibile che la Corea del Nord abbia sviluppato una bomba all'idrogeno oppure no? Allora, l'impressione che si ha leggendo le informazioni è che l'esplosione sia troppo modesta rispetto, diciamo, alle aspettative. È un'arma che sembra classificarsi più nell'ambito di quelle, diciamo, convenzionali, tipo Nagasaki, Hiroshima, per intenderci. Ora ovviamente occorre un'analisi molto più dettagliata. Tra l'altro, aspetto se vuole inquietante, quello più inquietante di tutti è il fatto che loro asseriscono di esserci arrivati dopo appena 4 test nucleari, e questo è solo il 4° test, quindi una progressione estremamente rapida. Questo può essere l'aspetto più inquietante, capire se hanno avuto accesso ad altre tecnologie che gli permettono di arrivare prima, diciamo, a questo tipo di armi. Allora, ho 30 secondi, Antoni, e una domanda secca, una risposta un sì o un no. Dato che per far esplodere una bomba all'idrogeno l'innesco è una bomba atomica, è possibile che sia esplosa solamente la bomba atomica e quindi l'innesco e non sia esploso l'eventuale bomba all'idrogeno? È possibile. È possibile. La ringrazio. Grazie a Vanni Antoni del CNR per essere stato con noi. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.